Qua siamo alla nona edizione di Stagione Culturale per il 10° anno di rigenerazione dello spazio, rigenerazione a base culturale. Infatti siamo entrati nel 2014, il tempo di sistemare e a fare un po' di spazio per accogliere il pubblico e per coltivare qualcosa, e dal 2015 abbiamo cominciato, quindi voilà. Ufficialmente l'inizio previsto per? L'inizio è previsto per il 6 giugno, che sarà solamente un'apertura intanto dei cancelli, un acclimatamento anche per il pubblico, per il ritorno in collina, e invece dal 7 giugno partiamo carichi con gli eventi, con la stagione culturale vera e propria. Posso chiedere a Mirko appunto questo filo conduttore che prende una parola d'ordine che ha a che fare anche con l'arte, perché nella prospettiva c'è il punto di fuga. Sì, è un punto di fuga positivo dalla città, per cui raggiungi la collina in mezz'ora, ti ritrovi in uno spazio più fresco con panorami stupendi, e quindi apriamo i cancelli per chi vuole un attimo fuggire nelle serate verso di noi, no? Per questi aperitivi al tramonto, spettacoli, concerti e di tutto di più. E questo festival molto interessante che è a metà giugno, che si chiama Insorti. Ci puoi dire qualcosa di più a proposito di Insorti? Sì, Insorti, diciamo, è iniziato appunto 9 anni fa. È stata un'iniziativa che in una prima fase, diciamo, era un po' di studio, per cui abbiamo accolto compagnie che principalmente facevano spettacoli in teatro. Invece dal secondo anno abbiamo dato questa formula del bando, e collegata al fatto di collegare le proprie performance, spettacoli, ma anche installazioni allo spazio stesso, per cui unirlo, che ne so, alla vigna, alla quercia, per cui una capacità di adattamento allo spazio. Non amo questi termini, ma è site specific. Sì, non volevo dirlo, però bravo. È proprio lui. Ci ho pensato io a dirlo. Allora, non solo però abbiamo un aspetto eterogeneo di spettacolo, Deborah. Sì, noi, come amiamo definire l'estate ai 300 scalini, una stagione multilinguaggio, multidisciplinare e site specific, appunto, della collina bolognese. Site specific anche perché non può che esserlo, visto che non siamo uno spazio, come dire, uno spazio architettonico tradizionale come un teatro, come un museo, come una casa delle culture. È un luogo collinare, ecosistemico, dove la cultura serve all'agricoltura, che è necessaria al giardinaggio, che è necessaria alla socialità e alle posizioni civili e politiche che prendiamo nello spazio. Dunque avremo, sì, come ogni anno avremo soprattutto teatro, ma anche musica. Dal 7 giugno il primo evento sarà una serata di stand-up comedy, oramai consueta, che facciamo ogni anno da noi assieme a cura di Emanuele Tumolo, in collaborazione con dei comici torinesi, Torino Comedy Lounge. L'8 segnalo questo momento di festa, di celebrazione, che facciamo per inaugurare questa nuova stagione, e speriamo, come dicevi tu all'inizio, anche l'inizio dell'estate. L'abbiamo intitolata scanzonatamente Giornata Figata. È una giornata in cui festeggeremo assieme ai ragazzi di Checkpoint Charlie, quindi artisti artigiani che hanno base in Bolognina. Come magari svilupperemo poi, abbiamo tante relazioni anche con la zona urbana, alla fine noi veniamo da lì, anni e anni di cultura in condominio, nelle periferie, da lì che veniamo prima di esserci trasferiti in collina. Quindi a partire dalle 6:30 avremo i ragazzi di Checkpoint Charlie con serigrafia live e fotografie ai sali d'argento con antiche macchine fotografiche, piccolo concerto dei San Barcamo con una formazione un pochino ridotta, quindi concerto situazionista sulla collina, e a seguire vinili, musica d'ascolto, sì, con un DJ, un nostro amico che viene da Padova. E niente, e poi appunto dal 13 partiremo con Insorti. Insorti è una rassegna, abbiamo selezionato 11 artisti, artiste, gruppi, tra 124 proposte che sono arrivate quest'anno, direi un anno abbastanza ricco. Anche qua musica, teatro, compagnie storiche della zona, segnaliamo Teatrino Giullare, Marta Cellamare, che è un'artista molto giovane basata a Bologna, e vari artisti che vengono davvero un po' da tutta Italia, compresa una compagnia con base berlinese. Modalità di partecipazione? Allora, ci saranno eventi a biglietto ed eventi a ingresso a offerta libera. Diciamo, Insorti è tutto quanto scandalosamente gratuito, a offerta libera. È molto consigliata la prenotazione, perché appunto come raccontavo, contava bene Mirko prima, durante Insorti cerchiamo di favorire fruizioni non tradizionali, tra virgolette, quindi sfruttiamo anche la morfologia, le caratteristiche fisiche del posto. Vuol dire che non tutti gli spettacoli o le performance avranno grande spazio per il pubblico. Ci saranno alcuni spettacoli per 30-40 persone, alcuni la Patrizia Menichelli di sabato 22, itinerante per gruppi di massimo 18 persone, quindi consigliata la prenotazione via Eventbrite. Nel blog, nelle pagine social ci sono tutti i riferimenti. E i programmi anche. E anche i programmi che oggi dalle 13 direi saranno disponibili.